tranquilli, questa volta non c'è l'incipit di introduzione direttamente dalla nostra sigla, dai Modern Jazz Quartet, direttamente a Palazzo Albergati fino al 30 marzo, ovviamente 2025. Protagonista ancora una volta Antonio Ligabue, però con un titolo particolare, La Grande Mostra. In effetti, da quello che mi hai raccontato in seguito alla presentazione, è veramente estesa, esaustiva e completa a quanto pare. Sì, esatto, sono più di 100 opere e sono disposte anche in modo cronologico per appunto far vedere tutta la crescita artistica di questo pittore, di questo artista, Antonio Ligabue. E la cosa molto interessante è che naturalmente la sua vita artistica coincide con la sua vita biografica, nel senso che le due cose si intrecciano, proprio perché molti sanno che Antonio Ligabue ha avuto una vita molto amara, molto, molto difficile. Travagliata, sì, con alcuni aspetti che l'hanno portato a disturbi anche per quanto riguarda l'approccio di quotidianità, di vita. Ricordiamo che lui amava vestirsi da donna non perché avesse il famoso cross dressing, ma perché si immaginava, siccome non aveva una compagna, si immaginava di avere vicino a sé, in se stesso, la sua compagna, la sua donna, e se la immaginava guardando le sue braccia, il suo corpo vestito con indumenti femminili. Fa molta, diciamo, tenerezza. E amarezza questo atteggiamento. Una grande passione per le motociclette. Grande passione per le motociclette. Pur di fare un giro in moto, lui dipingeva per tutti purché potessero fare un giro in moto. Esatto. Questa concessione anche molto adolescenziale, se vogliamo. Sì, no? sì. Era un po'... Anche nella sua passione per gli animali, per esempio, c'era questa... Sì, questo infantilismo in senso buono. Tenero, esatto. La passione, esatto, per gli animali è un aspetto molto presente, come ben sapete, e il deturpare anche il proprio corpo, perché resta affascinato dalla maestosità dell'aquila con questo becco adunco, e lui voleva assomigliare all'aquila e batteva il naso contro dei mattoni pur di ridurlo più adunco e avere somiglianza a questo maestoso rapace che lui vedeva come un grande re del cielo. Allo stesso modo imitava il ruggito della tigre che è ripreso nei suoi dipinti. Per riuscire a sbarcare il lunario nelle campagne reggiane e non solo, portava dipinti, regalava dipinti e quadri che molte volte gli stessi fruitori non capivano l'importanza che sarebbe arrivata dopo. Una grandissima produzione, seppur a volte anche per necessità, per avere un piatto di lenticchie, come si suol dire, e poter sbarcare il lunario di un artista che poi diventerà una figura molto importante. Pensa se sapesse cos'è se sapesse arrivato oggi se sapesse oggi, esatto. Ma credo che uno dei curatori, Francesco Negri, l'ha detto che lui si immaginava che un giorno avrebbe avuto un successo che probabilmente non l'avrebbe visto, ma che sarebbe arrivato. Aveva consapevolezza della sua capacità, della sua bravura. Ricordiamo che nasce a Zurigo nel 1889, la madre è una migrante di origine bellunese, il padre è ignoto, viene subito dato in adozione ad una famiglia svizzera e già in adolescenza manifesta alcuni problemi psichiatrici che lo portano a un primo internamento presso un collegio per ragazzi affetti da disabilità. Quindi una gioventù e un'adolescenza che già lasciava presagire diverse difficoltà. Entriamo in mostra, lo facciamo con due voci. Ci puoi presentare questi dialoghi, Anna? Certo, stiamo per sentire Francesca Villanti, che è una delle curatrici, insieme a Francesco Negri, che in questo primo audio che sentiremo ci parleranno proprio della figura di Antonio Ligabue. La sua vita travagliata è iniziata sin da subito, figlio di una ragazza nubile che arriva a Zurigo già incinta, in cerca di lavoro, in cerca di una vita, cosa che gli era stata negata qua in Italia. E questo bambino viene affidato ad una coppia svizzero-tedesca, ha soli 9 mesi, e la mamma si risposa con il Lhakabue che poi lo adotterà, ma lui rimarrà comunque in affido alla famiglia svizzera, con la stessa difficoltà di vita che gli avrebbe potuto offrire la madre, nel senso che grande povertà, grande miseria, quindi anche cresce malnutrito, quindi oltre a una serie di problemi psichici che comunque sono già evidenti sin da piccolo, sicuramente anche l'aspetto della salute dovuto a una malnutrizione influisce moltissimo anche sulla sua crescita. Entra e esce dagli istituti psichiatrici da quando è bambino. La prima volta già alle scuole elementari viene riformato in un istituto e questa è la sua vita per i primi 17 anni in Svizzera. Poi viene cacciato dalla Svizzera e viene mandato in Italia, in un posto che non gli appartiene. A che punto della sua vita nasce il talento per l'arte? Subito, se ne accorgono già nel primo ricovero. Abbiamo testimonianza di un documento medico in cui lo psichiatra che lo tiene in cura nel primo ospedale psichiatrico si accorge che l'unico modo per farlo stare serio è di dargli una matita e farlo disegnare e quindi viene fuori da subito questa sua capacità, che non è soltanto una capacità, è proprio un bisogno di esprimersi disegnando. Questa vita travagliata si vede nelle opere di Antonio Ligabue? Assolutamente sì, infatti lui appena arrivato in Italia chiaramente era un corpo estraneo al nuovo tessuto a Gualtieri, innanzitutto perché non parlava la lingua, parlava tedesco e non era accettato dalla gente. Lui, pur essendo obbligato a abitare a Gualtieri in Italia, però lui si sentiva svizzero e nella sua arte l'elemento svizzera l'ha sempre inserito. Quando cominciò a pitturare in modo continuo, costante, i suoi dipinti, soprattutto quelli bucolici, perché chiaramente quelli degli animali feroci hanno un paesaggio africano, quindi lì non era possibile, però in tutti i soggetti bucolici lui sezionava il quadro in due fasi ben precise. Il primo piano sottostante metteva l'animale con gli elementi dei caratteri padani, i campi di grano con i paperi rossi, i tipici canneti della Comunità del Po, i pioppeti, tutte cose tipiche della vegetazione padana, mentre invece sullo sfondo lui ritornava sempre, idealmente, perché lui non tornò più in Svizzera, nella sua Svizzera, con i paesaggi gotici tipici della Svizzera, e lui proprio specificava San Gallo, perché lui veniva da San Gallo, quindi è per tutta la vita, lei vedrà, dai primi quadri fino al quadro degli anni, fine anni 60, gli ultimi dipinti, questa cosa ricorre sempre in lui. Mia madre, oramai ottantenne, mi ricorda che portavano l'artista in giro per le campagne, arrivando fino a Bologna. Lei è originaria della Campania, tra Cadefabbri e Minerbio, e dissero i bambini, ovviamente molto vivaci, incuriositi anche dalla stranezza di questo personaggio, che correvano intorno, dicevano: lasciatelo stare, mi raccomando, non disturbatelo, se lo vedete disegnare, lasciatelo fare. E lei mi racconta che lasciò un disegno di una bambina più o meno della sua età all'epoca, con questi capelli neri, intenta a rincorrere un galletto, e dice: ma quello ero io. Quindi e chissà. Ho messo Bud Powell da Time Waits come colonna sonora perché è stato un musicista tanto importante quanto purtroppo disturbato, anche in seguito all'aggravarsi di questi disturbi per una retata della polizia. dove non si accorsero, chiaramente figuriamoci, di questi suoi disturbi, lo picchiarono coi manganelli alla testa e quindi ulteriormente in difficoltà per quanto riguarda l'aspetto cerebrale. Anche lui con disturbi psichiatrici, il grandissimo Bud Powell resta comunque sempre e comunque un grande del jazz. Fece parte del famoso quintet al Massey Hall del 1954 con Charlie Parker, Mingus, Max Roach, insomma. Non divaghiamo con ricordi emotivi, che poi dopo mi trema la voce, faccio anche brutta figura già di quelle che più faccio. Nell'ultima parte, in conclusione, in questo minuto avete parlato con i curatori, che puoi ripetere i nomi? Certo, Francesca Villanti e Francesco Negri. In questa ultima parte? In questa ultima parte invece abbiamo parlato della mostra in sé, di come loro hanno scelto le opere, di che tipo di ricerca hanno fatto e come l'hanno sviluppata. E poi c'è una particolarità in conclusione. Non anticipiamo. La mostra è il risultato di anni di ricerca, anni di lavoro, per cui quello che abbiamo cercato di far vedere attraverso le opere scelte con grande cura e grande attenzione è come lavorava Ligabue, che tipo di artista è, quali erano le sue fonti, da dove nasce l'ispirazione delle fiere, degli animali. È un racconto su un duplice binario: da una parte la vita, perché comunque proprio questa sua vita difficile è il motore che lo porta poi a realizzare queste opere così forti, così violente, e dall'altra parte invece, da un punto di vista proprio storiografico, siamo andati ad analizzare quelle che erano le sue fonti, e quindi in mostra ci saranno questi elementi che sono una novità assoluta. In tutto questo noi facciamo vedere anche l'evoluzione pittorica, il percorso dal primo periodo, perché l'opera di Ligabue è stata divisa in tre periodi: primo periodo 28-39, periodo un po' dell'incertezza, un po' dei colori tenui, un po' dei colori poco materici; secondo periodo 39-52, dove scopre il colore, la materia grassa. Ligabue, lei vedrà alcuni quadri di quel periodo lì che sembrano quasi dei bassorilievi della cromaticità che hanno. Poi il terzo periodo, l'ultimo periodo artistico della sua vita, 52-62, dove è il periodo, diciamo, dei dettagli, dove lui ogni cosa la cura quasi in modo maniacale e dove escono i suoi caratteri espressionistici. Quindi diciamo che con questa mostra io e Francesca riusciamo a dimostrare che Ligabue, sì, pur con una partenza primitiva, alla fine del suo percorso lo si può definire un grande pittore espressionista. E ha aperto qui una grande domanda: se Ligabue può essere definito un pittore espressionista? E qui lascio a voi poi comunque adito a dare riflessioni, perché come ben sapete l'arte è dialogo, è comparazione, è scambio di opinioni e tutto quello che va ad aggiungersi a una bellezza estetica e un grande piacere. 8:51 minuti in questo momento, siamo leggermente in ritardo. Io ti ringrazio tantissimo, Anna, anche perché tutto questo è per merito tuo. Non è vero, e io ringrazio te, anzi, di avermi permesso di fare questa diretta. E diamo la buona giornata e il buon giovedì alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Li ringraziamo anche loro per l'attenzione. Diamo appuntamento a domani in scena con i 103.1, ricordando che il Breakfast Club dalle ore 7 conclude con Vigilia di Weekend e vi porta a teatro. Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao Anna. Ciao, grazie mille.